9 in punto, la versione di Oscar. Oh, oh, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori in questo martedì 17 di gennaio. Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, mi sono molto cari, sapete, non solo i gatti, quindi auguri a tutti gli Antonio. Questa puntata è dedicata alle conseguenze a distanza di giorni ancora aperte, ancora tutt'altro che illuminate da luce, comprensione e lezioni acquisite della tragedia del mare, della Costa Concordia, una tragedia inequivocabilmente dovuta a totale improntitudine e irresponsabilità di chi era al comando della nave. Inevitabilmente partiremo da questo. Sapete che datemi solo 2 minuti come sempre per continuare a guardare al motivo per cui noi apriamo le trasmissioni tutti i giorni da mesi con gli End ai Doors, per la preoccupazione della tenuta dell'euro. Rapidissime notizie dalla rassegna stampa internazionale per quello che riguarda la crisi dell'euro. Sicuramente date un occhio oggi, perché ne vale la pena, all'intervista del Presidente del Consiglio italiano Mario Monti rilasciata al Financial Times. È un'intervista nella quale il Presidente del Consiglio italiano, saltata l'Eurovertice 3 che ci doveva essere tra pochi giorni perché Sarkozy non può più, pone con esplicita ruvidezza per la prima volta la necessità di un doubt des rispetto al rigore ulteriormente imbracciato con il decreto salva Italia a fine dell'anno scorso. E il Presidente del Consiglio italiano ha un paio di passaggi sul fatto che in cambio di questo rigore aggiuntivo italiano, ma parla anche a nome degli altri paesi eurodeboli che hanno imboccato il sentiero di una recessione ancora più dura, per tenere per fare onore al fiscal compact imposto dai tedeschi, in cambio di questo rigore, dice esplicitamente Monti con una certa durezza, ci deve essere un concomitante visibile miglioramento su un terreno parallelo. Il do ut des che chiede il Presidente del Consiglio è che deve avvenire immediatamente l'abbassamento dei tassi di interessi sulle aste dei titoli, perché altrimenti, prosegue, se questo doubt des non appare immediatamente alle opinioni pubbliche, allora il movimento verso il quale tutti i paesi sono impegnati, quello di cui guido il governo con particolare intensità, e il movimento verso la disciplina e la stabilità fiscale, inizieranno ad apparire alle opinioni pubbliche come una specie di impegno unilaterale, e allora, se non si manifesteranno miglioramenti nei tassi di interesse, vi potrà essere una potente reazione all'indietro con forti effetti di populismo, contrari non solo alla disciplina ma all'idea stessa di Europa e dell'euro. Sono parole molto esplicite quelle di Monti al Financial Times. Altra cosa, Frankfurter Allgemein, questo è un problema per chi non legge il tedesco, c'è un'intervista al vice ministro dell'economia Vittorio Grilli che annuncia la stabilizzazione del debito pubblico italiano al 100% del PIL entro il 2020. Sapete che il governatore della BCE Mario Draghi ha detto che la situazione è in via di ulteriore deterioramento. Su questo trovate approfondimenti sul Sole 24 Ore. Altra rimando ai giornali internazionali, Financial Times Deutschland riporta oggi che al board della BCE che si è tenuto lo scorso giovedì c'è stato un dibattito di cui non sapevamo nulla, molto delicato, perché per la prima volta all'interno del board, i membri del board della BCE hanno chiesto che cosa fare dei titoli del debito pubblico greco che sono nel balance sheet, che sono nell'attivo patrimoniale della BCE, perché sono stati acquistati dalla BCE, nel caso in cui prosegua la rottura tra Grecia e rappresentanti dei creditori privati. Sapete che è stata annunciata la scorsa settimana la rottura, e i colloqui riprenderanno alla fine di questa, ma l'ipotesi per la prima volta avanzata dal governo greco è di procedere unilateralmente a un abbattimento fino al 70% del valore del debito pubblico greco. Sarebbe una mossa di default equivalente a quella dell'Argentina, non pilotata, significa uscita dall'euro automatica. Ecco, per la prima volta si è posto il problema all'interno del board della BCE, e dice il Financial Times Deutschland che non è stata presa alcuna decisione, quindi si inizierebbe a valutare anche all'interno della BCE, sempre che questo resoconto sia veritiero, l'ipotesi seria di che cosa fare dei titoli in euro della Grecia, quindi di che cosa fare di fronte a un'ipotesi che la Grecia si avvii a un default non pilotato ma traumatico, con una vera e propria uscita dal quadro dell'euro. Mi fermo qui, ultima osservazione. Ieri è andata bene l'asta dei titoli a brevissimo però della Francia, perché erano titoli a 51 settimane, è andata molto bene, però era la prima asta che si teneva dopo il downgrading, nel senso che è andata, i tassi di ieri sono stati più bassi rispetto a quelli dell'asta del 9 gennaio che erano precedenti al downgrading, con un tasso dello 0,40%, quindi 40 punti base. E l'ultima cosa, Ugo Dixon, l'autore della mitica, per gli addetti ai lavori, colonna Breaking News, che è su Reuters, giustamente secondo me richiama l'attenzione di tutti sul fatto che più che i passi avanti sul fiscal compact e l'accordo tra Grecia e gli altri paesi, attualmente la vera emergenza si chiama Grecia. Quindi dice, se tutti i paesi premono sul governo greco riservatamente in questi giorni prima che si riprenda il dibattito con i rappresentanti dell'IIF, che è la lobby bancaria che rappresenta i bond holder greci, è meglio, perché sennò scopriremmo che qualunque tipo di compromesso è inutile se la Grecia se ne va per i fatti suoi. Fine della parentesi dedicata alle cronache dei giornali internazionali sulla tensione dei mercati e dell'euro, e andiamo al punto di giornata. La tragedia della Costa Concordia, sapete, avendo seguito le evoluzioni, che siamo ben lungi dall'avere un quadro accettabile delle responsabilità terribili di questa tragedia del mare, che si deve inequivocabilmente alla responsabilità di chi era al comando della nave, di chi ha tracciato quella rotta, di tutti i responsabili di plancia al comando della nave. È una nave che per stazza non si porta certo con due persone in plancia, ma che ha una catena di responsabilità di diversi ufficiali, e al di là della rotta, dell'aver preso lo scoglio, dell'aver negato che fosse sulle carte, ancora oggi sui giornali trovate particolari agghiaccianti del ritardo con cui il comandante ha proceduto a tutta la serie di operazioni necessarie per fronteggiare ciò che stava avvenendo sulla nave. Si apprende di telefonate fatte ai responsabili della compagnia e a ex ufficiali al di fuori di ogni responsabilità dell'accaduto, e abbiamo le prime trascrizioni con le ore relative che testimoniano come la Guardia Costiera avesse iniziato dopo decine e decine di minuti dai fatti a capire come il comandante Schettino fosse, non fosse dove era innanzitutto, cioè dove il suo dovere gli imponeva di essere al comando dell'operazione di evacuazione della nave, e mentisse in maniera che dalle registrazioni pubblicate sui giornali è apparente. Io sono un garantista, ovviamente non posso che attenermi a quello, ma certo, agli occhi di tutto il mondo, e di questo parleremo oggi, questa tragedia non può che avere un impatto molto forte su uno dei settori che era con crescita al bilancio turistico italiano. Era un settore fiorente, perché era un settore, quello delle crociere, in cui l'industria italiana in questa componente registrava l'anno scorso 11 milioni di passeggeri, e Civitavecchia era il porto leader con 2 milioni e mezzo di passeggeri. Civitavecchia è esattamente il porto da cui proveniva la Costa Concordia in questa sua rotta verso Savona. Ecco gli ospiti con cui tentiamo di capire meglio questa vicenda e anche il suo primo impatto su il complesso del settore dell'economia italiana. Sono innanzitutto la collega Raffaella Carla Calandra, che è inviata all'Isola del Giglio. Buongiorno, grazie Raffaella. Ciao Oscar, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Bruno Dardene, che è direttore, il mio condirettore della rivista Capo Horn, che si occupa proprio di trasporti e logistica. Buongiorno e grazie Bruno Dardene. Buongiorno Oscar e buongiorno a tutti. E Pasqualino Monti, in questa prima parte della trasmissione con noi, il presidente appunto del Porto Civitavecchia, il porto leader nel settore del turismo crocieristico italiano. Buongiorno al presidente Monti. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Raffaella, ci fai un punto innanzitutto da quello che si capisce lì e a contatto con gli inquirenti, perché ancora stamattina sulla stampa italiana si parla di liste di dispersi che vanno dai 26 ai 29 ai 40, con liste che non tornano. Di lì e nei tuoi contatti con le autorità di lì, che cosa si capisce? c'è molta confusione e questo è un dato ormai assodato. In realtà diciamo tutto il fronte rispetto alla lista dei passeggeri, più che da qui, cioè paradossalmente più che da qui da dove vengono le operazioni di soccorso, ossia qui dall'isola del Giglio, è diciamo controllato e monitorato soprattutto a Grosseto in prefettura. C'è molta confusione perché sono stati incrociati i dati della lista dei passeggeri con gli elenchi delle persone che sono state soccorse e quindi censite nel momento dell'evacuazione della nave, ma vista la drammaticità di quanto è accaduto, vista anche il fatto che si trattava di moltissimi gruppi di anche stranieri, è stato particolarmente complicato, questa pare essere una delle ragioni, incrociare tutti quanti i dati. Fatto sta che però a giorni ormai dal naufragio della Concordia, appunto come dicevi, ci sono ancora ampi margini di incertezza rispetto al numero dei dispersi, che è salito moltissimo rispetto a quella cifra delle 16 su cui ci eravamo un po' assestati ieri dopo un'indicazione della Presidente della provincia, ed è salito soprattutto dopo una segnalazione arrivata da Berlino, arrivata dalla polizia tedesca, che denunciava appunto la mancanza nei loro contatti di un gruppo di 10, forse 12 turisti tedeschi. Da lì appunto si sono rimessi in moto tutta una serie di operazioni e quindi c'è questo numero di dispersi che oscilla tra i 29, ma potrebbero essere a questo punto anche di più. Quindi questa è una delle prime grandi paure con cui l'isola si è risvegliata questa mattina. L'altra grande paura, oltretutto in questi istanti, fino a poco tempo fa ci sono state 4 esplosioni sentite molto forti qui sull'isola, perché stanno cercando i soccorritori di aprire dei varchi negli oblò e nei portelloni della nave per cercare di entrare e quindi di cercare anche nella parte sommersa i dispersi. L'altra grande paura dell'isola, e non solo, ma anche dell'intero Argentario, è quella del timore, anzi la grande paura del timore di un disastro ecologico, considerando anche le 2000 tonnellate di serbatoio ancora appunto nella pancia della nave, e poi ancora le grandi incertezze sugli spostamenti anche della nave, che piano piano si è mossa e si è avvicinata pericolosamente alla scarpata di 70 metri, che vorrebbe dire l'inabissamento della Concordia e quindi vorrebbe dire complicare anche tutte quante le operazioni poi di rimozione del relitto. Attualmente le condizioni del mare e quelle previste quali sono? Attualmente sono buone, ieri c'era il mare grosso e per questo erano state sospese le ricerche, oggi invece c'è il sole e le condizioni del mare sono buone e infatti sono ricominciate le operazioni di soccorso. Per il pompaggio del carburante, il vice ministro Clini ieri ha chiarito che entro le 48 ore spettava la compagnia, finché quindi il relitto è in buona parte, almeno per oltre metà ancora emerso, proporre metodologie coerenti col fatto che si potesse procedere al relitto emerso, e dopodiché però bisognava pensare in caso diverso a metodologie, piattaforme completamente diverse, perché nel caso in cui lo scafo si muovesse, vice ministro Clini ha detto, si complica tutto, la probabilità naturalmente che le doppie paratie dei comparti in cui è tenuto il carburante possano cedere per spostamenti dello scafo, e quindi mancata tenuta di queste paratie a quel punto rendevano addirittura, ha detto ieri sera Porta a Porto, addirittura molto probabile o comunque possibile, con una elevata soglia di rischio, la fuoriuscita del carburante. Da questo punto di vista, lì le autorità che stanno coordinando a che punto sono? Questo devo dire deve essere deciso a livello centrale, qui su questo fronte ancora non si stanno muovendo perché aspettano, come ricordavi, le indicazioni che devono arrivare dalla compagnia appunto, e queste ancora non sono arrivate. Sono state però posizionati intorno al relitto della nave, oltre ai laser che registrano gli spostamenti, anche dei mezzi per cercare diciamo così di tenere d'occhio anche a eventuali avvistamenti di olio olio, e già ieri infatti erano state segnalate delle chiazze di olio, e quindi per monitorare anche il fronte di un'eventuale perdita di carburante. Però ancora non sono cominciate in alcun modo le operazioni di svuotamento dei serbatoi, e si preannunciano operazioni estremamente complicate e anche lunghe, devo dire. Raffaella, poi la tua specialità, per chi ti conosce, per chi ti ascolta, è naturalmente la giudiziaria. Oggi c'è anche l'interrogatorio di garanzia, i procuratori ieri hanno iniziato a parlare, e devo dire dai toni non fanno altro che comprovare quello che una qualunque ricostruzione, anche solo approssimativa e con tutto il rispetto per gli indagati, induce a credere, cioè che le responsabilità siano incredibili e che il fermo sia stato motivato, visto il comportamento che emergeva del comandante, anche di fronte all'ipotesi di fuga. È confermato per oggi l'interrogatorio di garanzia, sì? Sì, oggi ci sarà l'interrogatorio di garanzia del comandante Schettino, appunto a Grosseto. Come dicevi, gli elementi dell'errore umano sembrano ormai confermati da tutti, e devo dire che sembrano confermati anche soltanto dallo sguardo, stando qui, perché ieri abbiamo potuto anche dal mare avvicinarci, fare il giro della nave, andare a vedere anche il punto in cui c'è stato l'impatto dello scoglio, e vista dal mare l'isola è forse ancora più vicina rispetto a quanto da qui, da dove mi trovo adesso, dal porto, sembra quasi di toccarla la nave, e si percepisce evidentemente la vicinanza di una nave che è enorme rispetto all'isola, e quindi già ad occhio nudo si vede quanto vicina fosse all'isola, e quindi evidentemente troppo vicina da andare ad impattare questo scoglio. Altro elemento, questa tradizione, questa abitudine, questa, quello che nel gergo dei marinai chiamano l'inchino, appunto, di avvicinarsi con la nave per far salutare l'isola. Ebbene, ieri la gente del posto ci ricordava come già ad agosto la stessa nave, la Concordia, si era avvicinata all'isola per mostrare ai turisti le luci dell'isola, e viceversa all'isola, appunto, le luci delle feste che avvengono nei suoi salori. E noi ieri abbiamo anche potuto vedere, incontrare i genitori del maître Tievoli, che era a bordo della nave, e da casa loro erano stati avvisati dal figlio che la nave alle 9:30 sarebbe passata accanto all'isola, e da casa loro abbiamo visto sia dalla casa poi dopo dal mare, appunto, quanto vicino appunto fosse il luogo dove poi è avvenuto l'impatto tra la nave e lo scoglio, e le case anche. E questa è anche una delle ipotesi di cui probabilmente il comandante dovrà dare spiegazioni già oggi nell'interrogatorio di garanzia, sul perché si sia avvicinato così tanto all'isola, se effettivamente era per questo omaggio che voleva fare al suo maestro, o forse anche per una sorta di, diciamo così, di sfida, che però è stata drammatica. Sì, infatti, e devo dire che chiunque abbia una minima esperienza, anche come ce l'ho io, di barche da quelle parti, visto che non stiamo parlando di Ushuaia a Punta Arenas dall'altra parte dell'emisfero, ma stiamo parlando dell'isola, chiunque abbia un minimo di esperienza nel Mediterraneo, appena ha visto e ha capito, non riesce a dare una spiegazione, se non una follia. E devo dire, quella è una nave che naturalmente, come avrete capito, anche chi non ha esperienza, ha servita da sistemi complicati, sofisticatissimi, si imposta tutto per computer. La compagnia ieri ha fatto chiaramente capire che quel tipo di rotta va comunicato, autorizzato preventivamente, non è stato fatto, quindi siamo in una sfera nella quale l'autonomia e quindi la piena responsabilità del comandante Schettino è assolutamente fuori discussione, e purtroppo l'impatto sarà gravissimo, secondo me, potenzialmente, di quelle immagini, di questa vicenda, di questa totale irresponsabilità nelle operazioni di evacuazione, di una inadeguatezza che appare coinvolgere l'intera linea di comando, i criteri di composizione dell'equipaggio, i tempi e i modi successivi all'impatto sono tali che, descritti da tutti i giornali internazionali, non possono che gettare, come se ce ne fosse bisogno, un'ulteriore ombra sulla capacità del nostro paese sarà attestata al mondo, proprio in un settore in cui andavano benissimo le cose. Allora, Presidente Monti, per Civitavecchia, ripeto, sono 2,5 milioni di passeggeri, e costa, insieme a compagnie come MSC e Royal Caribbean, sono vasta parte di questi 2,5 milioni di passeggeri, che era proprio il record per il posto di Civitavecchia nel 2011. Lei che cosa pensa, che cosa teme anche, sperando che naturalmente non avvenga, ma un impatto da questa vicenda potrebbe esserci per la vostra economia. Ma guardi direttore, secondo me in questo momento, dopo una tragedia di tali dimensioni, è anche difficile tracciare degli scenari, però se mi consente è tuttavia necessario sottolineare alcuni aspetti per me importanti. Innanzitutto le crociere rappresentano comunque un fenomeno unico nel panorama turistico mondiale, è un prodotto che ha saputo coniugare tradizione con innovazione, fornendo anche dei servizi turistici di eccellenza a dei prezzi molto competitivi rispetto a qualsiasi altra modalità di vacanza. Per l'esperienza maturata a Civitavecchia, in contatto con tutti i più grandi operatori, con tutti i più grandi armatori del mercato delle crociere, sento di affermare che in prima battuta forse un impatto emotivo della tragedia all'isola del Giglio certamente si farà sentire, ma sono altresì convinto che nel medio periodo un prodotto così vincente, come le dicevo prima, debba comunque continuare ad affermarsi e a crescere. Siamo talmente convinti di questo che proprio come porto di Civitavecchia, primo nel Mediterraneo quest'anno a livello di mercato croceristico, abbiamo pensato di organizzare, e l'annuncio ufficialmente oggi, un evento internazionale a metà di luglio destinato proprio ad accendere i riflettori sul mondo delle crociere, anche come un po' fucina di innovazione e di creazione di nuovi itinerari. Vorrei dirle che certamente sì, si tratta di una tragedia, ma bisogna anche sottolineare il fatto che dal 2000 al 2012, in 12 anni, questa è l'esperienza che posso dirle di aver verificato personalmente, Civitavecchia ha ospitato 15 milioni di passeggeri che hanno viaggiato in perfetta sicurezza in tutto il Mediterraneo, e questo è soltanto il nostro esempio. Poi tale esempio può essere applicato a tutti i porti italiani, tutti i porti del Mediterraneo, i porti nel mondo che ospitano navi da crociera. Certo, la tragedia del Giglio porterà tutti ad alzare la guardia, a applicare in modo puntuale standard e procedure di sicurezza che esistono e che dovrebbero essere sempre rispettati, cosa che sembrerebbe il comandante Schettino non aver fatto. Io ricordo a chi ci ascolta che è un settore, insomma, a tutti gli effetti in crescita a doppia cifra, perché i movimenti croceristici in Italia sono stati nel 2011 in aumento del 16% sul 2010, 11 milioni di unità, cioè di passeggeri movimentati, un giro d'affari che è stato superiore ai 4 miliardi e mezzo, e per fare il paragone l'importanza che ha questo settore nell'offerta turistica italiana, ricordo che questi 4 miliardi e mezzo di euro che sono giro d'affari per l'Italia nel 2011, paragonati al resto d'Europa, sono 14,4, neanche tre volte tanto, e per gli Stati Uniti e quindi per tutto il bacino caraibico sono meno di 30 miliardi di euro, quindi è uno dei settori in cui siamo leader, abbiamo una grande tradizione di marineria, avevamo e abbiamo da difendere una grande tradizione di realizzazione nei cantieri con tecnologia navale di elevato livello e sofisticatezza, di grandi navi croceristiche specializzate per la ricchezza degli allestimenti. In questo noi abbiamo dovuto subire naturalmente la concorrenza asiatica della cantieristica, ma rimaniamo leader nella capacità di realizzazione di interni coerenti col Made in Italy, oltre che con la sofisticatezza tecnologica. Purtroppo l'impatto dell'imbecillità assoluta e dell'irresponsabilità di chi era al comando di questa crociera, lo so che questa volta non sono garantista, ma io non ho parole di fronte alla sicurezza del mare. Essendo andato per mare, mi piace andare per mare, non riesco a capacitarmi di come si possa lasciare 4.000 persone nelle condizioni in cui inequivocabilmente oramai siamo in grado di dirvi che sono andate le cose. Tutto questo rischia di avere un impatto incalcolabile, secondo me, su tutta questa capacità italiana, dedizione italiana, tecnologia italiana, ed è una roba, vi dico la verità, che mi rende, oltre che per il bilancio terribile, che ancora non conosciamo delle vittime, furibondo, perché è una classica rappresentazione di come per l'imbecillità di qualcuno questo paese sembra non all'altezza di ciò che invece sa fare, deve difendere, deve combattere, perché nessuno possa dire che ci siano cretini in Italia. Purtroppo ci sono e fanno di questi danni. Eccoci tornati qua in studio, stiamo affrontando tutti i misteri ancora irrisolti del naufragio della Concordia, della Costa Spezia appartiene poi a un gruppo internazionale a controllo americano, Carnival, è andato ovviamente malissimo in borsa con perdita a doppia cifra. Tra gli sms dei nostri ascoltatori ce ne sono anche di titolari di agenzie turistiche, in particolare c'è un amico di Voghera che ci informa di lavorare appunto in una grande agenzia viaggi e di avere tante crociere prenotate e fino a questo momento nessuna richiesta di cancellazione. Altri ascoltatori che ci fanno che ci comunicano di aver loro prenotato crociere per le prossime settimane e di non pensare fino a questo momento a disdire, a maggior ragione dicono perché le procedure di sicurezza a questo punto non potranno che essere ulteriormente implementata e perché ulteriormente si capisce che qui è il fattore umano, non tanto quello tecnologico di sicurezza a risaltare, anche se io devo ammettere il coordinamento delle procedure mi pare molto molto del tutto inadeguato, ecco, e si deve anche questo alla catena di comando. Che impressione hai, Bruno? Noi abbiamo la responsabilità, anni fa ci siamo inventati questo mensile Capo Horn, c'è anche il sito Capo Horn per tutti gli interessati e un po' per addetti ai lavori, perché abbiamo sempre pensato che trasporti e logistica fossero una delle emergenze irrisolte per dare più crescita al nostro paese, però tu hai una vasta esperienza di mare, di ambienti armatoriali e così via. Che impressione hai degli effetti di questa vicenda sul complesso dell'offerta croceristica italiana? Prima consentimi di condividere con te più che altro una grande tristezza per questa vicenda, perché mi ricorda terribilmente la vicenda dello Shim di Conrad, no? Il Patnar, questo comandante che abbandona la nave. Non è tanto l'errore umano che mi sconvolge di questo avvicinamento alla costa, quanto il seguito di questo errore umano, no? È veramente un aspetto. La Lutin Bell nella sede dei Lloyd's è sempre suonato il suo lugubre rintocco da 300 anni a questa parte, annunciando la perdita di una nave, e questo ha sempre sconvolto la comunità marittima. In questo caso c'è questo aspetto posteriore che secondo me è ancora più grave dell'errore umano di questo avvicinamento folle alla costa dell'isola del Giglio. Fatta questa premessa vengo alla tua domanda. Vorrei andare controcorrente, ma non solo perché conosco bene il settore croceristico, ma vorrei citare due casi. 1990 una nave da crociera, l'Achille Lauro, fu dirottata da terroristi. Si disse è finito il nascente sviluppo del settore croceristico, perché nessuno andrà in crociera, perché una nave è troppo un bersaglio facile per il terrorismo. La crescita da allora ad oggi è sempre stata, se non a doppia cifra annuale, più o meno a doppia cifra, oggi 16 milioni di persone nel mondo ogni anno scelgono la crociera come vacanza. Secondo caso, 11 settembre Torri Gemelle, considerazione analoga, era un danno permanente e il turismo internazionale ne risentì in maniera pesante. L'unico settore che non fece registrare una flessione fu quello delle crociere. Questo per dire che i parametri che abitualmente applichiamo economicamente in modo realistico a tutti gli altri settori per le crociere non funzionano, per un semplice motivo, che la formula delle crociere è talmente innovativa dal punto di vista di rapporto qualità-prezzo e apertura di una area di sogno, anche vorrei dire, nella vita di persone che non si potrebbero permettere né di visitare località nel mondo né di utilizzare un albergo a 6 stelle, direi, non a 5 stelle, facendo una vita che non si potrebbero permettere mai a prezzi di sconto, che inevitabilmente questo terrà. Non mi stupisco della telefonata o dell'SMS che annunciavi del tour operator di Voghera che dice non ho cancellazioni. Io credo che Costa Crociere subirà un impatto forte nel breve. Un impatto minore avranno altre compagnie, ma inevitabilmente il settore si riprenderà in tempi medio-brevi, fermo restando che in questo momento l'attenzione deve essere per forza concentrata a questa vicenda che sull'Italia proietta, e questo è un dato di fatto sconcertante per quello che ha fatto l'Italia nel settore delle crociere. Vorrei ricordare che fino a 5 anni fa l'industria cantieristica italiana rappresentava il 75%, se non l'80%, delle nuove costruzioni di navi da crociera nel mondo. cioè hanno inondato di Made in Italy il mondo passando via mare, e questo dato resta ed è quello da salvaguardare. E abbiamo non la vicenda Fincantieri poi, che è ben aperta, e ne sappiamo perché ne seguiamo le cronache proprio per l'impatto, il morso che la concorrenza ha avuto su questo. Comunque Costa ha un programma intenso di nuove navi da varare, quindi non credo, a maggior ragione avendo perso questa, adesso ho aperto il problema dei rimborsi e delle coperture assicurative, bisognerà stare molto attenti su questo. Che un dato, nei prossimi, fra 2010 e il 2014, sono previste entrare in servizio nuove navi per investimento complessivo di 10,3 miliardi di dollari. Questo secondo me è un dato, e queste navi vanno riempite. Ogni passeggero in ogni porto che tocca spende $100. Solo per dare un po' la dimensione, no? Questa nave ne portava 4.000 passeggeri. Ecco. No, anche perché, voglio dire, tanto per cominciare, per città come Napoli, per esempio, oltre che per Civitavecchia, l'abbiamo visto, per Venezia, certo, è una quota che si offre all'attrattività generale di un polo come Venezia, ma per alcuni porti ed economie retroportuali italiane, beh, insomma, il flusso dei turisti delle crociere, meglio se su vettori italiani o sui componenti di gruppo, ma comunque a specializzazione italiana, come nel caso Costa Carnival, l'impatto è molto molto molto forte e decisivo. Io credo che, oltre a ciò che oramai è sulla stampa mondiale, sarà decisivo anche la prova che l'Italia saprà dare o non saprà dare di fronte alla messa in sicurezza del reddito e del carburante e del suo impatto su il mare e il territorio circostante. Se falliamo anche in quello, beh, ci possiamo veramente appendere i cosiddetti al muro, perché la prova che daremmo di inefficienza complessiva sistemica, credo che sarebbe un bel cappuccino in cui tutti i concorrenti dell'offerta turistica mediterranea mondiale inzupperebbero il biscotto, e purtroppo sarebbe giusto così. Ecco, quindi bisogna augurarci che non avvenga, che tutto vada per il meglio, che la compagnia innanzitutto, e che poi tutte le autorità di protezione civile intervengano con efficacia, perché ovviamente quella bomba di carburante, una bomba non esplosiva ma bomba per l'impatto che può avere ambientale, è una nuova, terrificante minaccia sull'immagine della capacità italiana di sapere stare al mondo. Abbiamo con noi l'amministratore delegato del Registro Navale Italiano, Ugo Salerno. Il Registro Navale Italiano è un organo, anche qui, che vanta specializzazione a livello mondiale, vista la tradizione della marineria italiana, esattamente, che si occupa di tutto ciò che riguarda le ispezioni per la messa in sicurezza, per l'impiantistica, la parte tecnologica della marineria, e quindi delle navi che circolano. A maggior ragione quando si tratta di navi così sofisticate, complesse, perché a loro si affidano oltre 4.000 passeggeri a ogni viaggio, con un equipaggio di molto superiore a 1.000 unità, si tratta di sistemi molto avanzati, e da questo punto di vista si è saputo che le ispezioni, viste che sono ricorrenti nel tempo, dovute secondo le procedure del codice della navigazione, erano tutte in regola. Quindi da questo punto di vista, la domanda che faccio a Salerno, non c'è niente che riguardi la sicurezza componentistica, tecnologica dei sistemi della nave, che potesse se in qualche misura ovviare alla follia o all'errore umano che sembra aver presieduto a tutta questa vicenda? Intanto grazie per essere con noi, Salerno. Buongiorno a tutti, buongiorno direttore. Le visite e le ispezioni che abbiamo effettuato su questa nave di Costa, come su tutte le altre, hanno dimostrato che la nave era assolutamente inefficiente e tutti gli apparati erano in perfetto funzionamento. Quindi queste navi, tenga presente che sono dotate di apparati che consentono di controllare non soltanto la sicurezza della nave in generale, ma la navigazione in maniera assolutamente efficace, quindi che consentono di evitare qualunque tipo di errore accidentale. È chiaro che utilizzando questi apparati si può effettuare una navigazione assolutamente sicura. E naturalmente però non tarda a bypassare l'uomo, per così dire, quindi se l'uomo va sugli scogli, l'uomo va sugli scogli e tutti gli ecoscandagli del mondo non possono impedirlo, per così dire. Non possono certamente impedirglielo, perché qualunque apparecchiatura è comunque bypassabile dall'uomo, come in qualunque sistema. Se lei pensa ad un aereo piuttosto che ad un'automobile, lei può in ogni caso bypassare le apparecchiature di sicurezza e gli impianti di sicurezza. Certo è che prende una decisione che è una decisione assolutamente personale e in questo caso assolutamente incomprensibile. Nella sua valutazione, gli interrogativi e anche un po' di polemiche che stanno insorgendo nel nostro paese sull'impatto che la presenza di navi di questa stazza hanno quando si avvicinano all'interno di porti città come Venezia, tipo degli schiavoni, di fronte a fotografie che hanno iniziato a fiorire e che testimoniano quanto in realtà stanno vicini ad approdi che non possono ospitarle, cioè porti che non hanno recettività, eppure si spingono vicinissime a poche decine di metri laddove il fondale lo permetta. Ecco, per la conoscenza profonda che ha dei sistemi tecnologici e di messa in sicurezza di queste navi, il rapporto che queste navi hanno con il profilo costiero, artistico, monumentale, ambientale italiano è coerente alla sicurezza che i loro apparati ci possono ragionevolmente dare, oppure ci siamo spinti troppo oltre, come pensano molti? Io non condivido assolutamente questa opinione, le devo dire che anche personalmente ho attraversato la laguna di Venezia con una di queste navi di queste dimensioni. Tenga presente che queste navi riescono a manovrare a velocità bassissima e quindi riescono a effettuare questi percorsi creando un moto ondoso praticamente inesistente, le assicuro molto inferiore a quello dei vaporetti. Il tipo di apparecchiature che hanno a bordo queste navi consentono di verificarne la posizione con un errore microscopico e quindi comunque diciamo che se la nave è seguita da un comandante ragionevole e non dico altro, non crea nessun tipo di rischio all'ambiente intorno, mentre credo che porti un grandissimo vantaggio anche dal punto di vista turistico avere l'opportunità di una nave che passa in aree così pregiate. Porta un effetto, un impatto sui turisti, specialmente quando sono stranieri, che è difficilmente paragonabile a qualunque altro tipo di attraversamento. E che ha sicuramente poi un effetto, diciamo, a diffusione, moltiplicativo, perché è ovvio che le testimonianze, le fotografie, i filmati che ciascuno porta dominando dall'alto Piazza San Marco, come quando capitano con quegli avvicinamenti arriva degli schiavoni, e non possono che essere uno dei moltiplicatori di settore. Direttore, assolutamente, io conosco bene Venezia come la conosce lei, ma le assicuro che vista da una nave di questo tipo ha un effetto assolutamente affascinante. E mentre torniamo in conclusione ovviamente con The End of the Door, sentiamo rapidissimamente qualche telefonata dell'ascoltatore. Cominciamo con Mario che ci chiama da Firenze. Mario, prego. Oscar, buongiorno. Buongiorno ai nostri radioascoltatori. Io sono un gilese d'adozione perché da 16 anni ormai faccio le mie vacanze là e regolarmente tutti gli anni verso le 9:30, non mi ricordo di quale giorno, passa questo palazzo galleggiante che suona, accende tutto ed è uno spettacolo bellissimo. Naturalmente. Ma passa così vicino? Passa così vicino o? Così vicino, ma è talmente grande, sì, che sembra sia a un metro. Io in realtà sarà, non so, ora non so in miglia marine, ma è talmente grande che anche fosse un chilometro. Le miglia sono 1800 metri, qua stiamo parlando di poche centinaia di metri, perché per andare sulla scogliera che conosciamo bene chiunque lì di scuole, chiunque sia passato in barca da quelle parti, stiamo parlando non di miglia, stiamo parlando di poche centinaia di metri dalla costa, e qui stiamo parlando di poche centinaia di metri, quindi in questo costituisce la follia di quella scelta, di quella rotta non comunicata, non autorizzata dalla compagnia. Per questo la compagnia separa le sue responsabilità, ma però condivisa da una linea di comando che, ripeto, è formata da fiori ufficiali, non è formata dal solo comandante, quindi io non riesco a capirla questa roba. Grazie Mario che ci dai questa testimonianza. Danilo da Milano, prego Danilo. Allora, saluto a tutti, anche a lei Oscar. Credo una cosa, parlando della inefficienza italiana, che mi auguro che non lo sia, ma sono abbastanza realistico. Tra 2 mesi saremo qui ancora a parlare di questa nave, che sarà rimasta lì, se non addirittura non se ne sarà andata sul fondo, perché noto che ancora adesso, a distanza di 2 giorni, nessuno ha fatto niente e nessuno è in grado di decidere niente su che cosa fare e cosa non fare. Questa è la cosa più brutta che ci possa essere. Danilo, auguriamoci di no, perché su questo Clini, io mi fido molto di Clini, insomma il vice ministro che ha la vicenda in pugno all'ambiente, e ci ha parlato di 48 ore della compagnia, finché ci sono ricerche di corpi nella nave non si può procedere a levare il carburante, ma quello che dice è un rischio molto forte. Mi auguro di no. Massimo da Viareggio, come la pensa invece? Buongiorno dottor Oscar, è sempre un piacere parlare con lei. Ascolti, io volevo dire questo: il mio figlio frequenta l'Accademia Mercantile di Genova e proprio questo sabato si imbarcherà, partirà con una nave da crociera con una compagnia tedesca. Sono stata proprio questa compagnia a chiamare l'Accademia Mercantile di Genova a cercare i 4 migliori allievi dell'Accademia. Ecco, questo se può essere un'iniezione di fiducia. E diciamo, fa bene a dirlo, Massimo, perché noi abbiamo un'altissima tradizione di formazione di ufficiali di marineria commerciale, civile, e da questo punto di vista fa bene a riconoscere. Io non vorrei sembrare irrispettoso verso tutti gli ufficiali, i comandanti, che sono un prestigio da sempre dell'efficienza e dell'umanità e della capacità di coordinare emergenze e soccorsi nel nostro paese. Però questa vicenda rappresenta un'onta. Sapete il mio punto di vista, si tratti dell'euro, della finanza pubblica italiana o di cose come queste, bisogna saper stare al mondo ammettendo le proprie responsabilità, riparando i propri errori, essendo rapidi, efficienti e avendo onore e senso di solidaria umanità verso chi purtroppo è vittima e verso i loro parenti. E a loro che va questo mio ultimo pensiero, certo di interpretare l'opinione di tutti voi. Grazie a Dardani, grazie al presidente del Porto di Civitavecchia, amministratore delegato del Registro Navale Italiano. Appuntamento a domani. La linea ai colleghi del giornale radio. 9 in punto.